11.04 in questo martedì mattina, ancora una volta siamo qui alle microfoni delle libere frequenze di Radio Blackout per accompagnarvi con Parole Ribelli. Ciao a tutti e tutte da Eddie. Un buongiorno anche da Francesca, saremo qui come di consueto fino alle 12.45 a tenervi compagnia in questa mattinata uggiosa. Vi ricordiamo intanto i contatti se volete scriverci o telefonarci nel corso di trasmissione. Per gli sms potete scrivere al 346-667-3263, mentre il numero del telefono fisso è 011-249-5669. E come sempre Radio Blackout e Parole Ribelli le potete ascoltare oltre che sulla modulazione di frequenza ai 105.250, anche in streaming da radioblackout.org o sul sito di Radio Info Out. Noi su questo vi lasciamo ancora con un po' di musica, poi andiamo a presentarvi la puntata. CE09, allora prima di iniziare con la puntata andiamo come sempre a presentarvi brevemente quelli che saranno gli argomenti per la puntata di quest'oggi. Inizieremo come sempre con un po' di rassegna stampa, in particolare legata ad alcuni eventi che ci porteranno poi ad un approfondimento assieme ad Alessandro Ferretti, un ricercatore

E prima di iniziare con gli argomenti che vi presentavamo poco fa, ci prendiamo qualche minuto per andare a commentare una notizia così un po' di colore che ci viene offerta ancora una volta dalle pagine online della Huffington Post, che questa mattina titola in prima pagina: cortei dal Ministero dell'Interno, un piano per evitare lo scontro fisico tra polizia e manifestanti. Insomma, la questione segue un po' tutte le polemiche dei giorni scorsi dopo le cariche contro gli operai di Terni che ci sono state a Roma appunto la settimana scorsa, che sembra che improvvisamente abbiano fatto scoprire insomma tutta una parte di questo paese che la polizia in piazza usa i manganelli, che i manganelli fanno anche male se ti arrivano sulla testa e te la possono spaccare, e che appunto esiste lo scontro fisico in piazza, ma probabilmente finché i manganelli arrivavano sugli studenti o sui precari poco importava. Adesso invece, con tutto che ovviamente questo non muove di un centimetro la giusta solidarietà agli operai, però insomma a piani più alti il discorso insomma si è caricato di una certa ipocrisia. Però tant'è, sembra che il Ministero dell'Interno, di fronte alle polemiche, abbia subito voluto far vedere che è pronto a fare qualcosa e che quindi per l'autunno a venire sia pronto un bel pacchetto per evitare lo scontro fisico in piazza. Allora, il piano prevede, è geniale perché prevede, diciamo, il fatto che i manganelli vengano di fatto rimossi dall'equipaggiamento dell'unità in piazza e che essi vengano forniti di spray urticanti al peperoncino e teaser, così da non dover ricorrere all'uso dei manganelli. Ah, e idranti, giusto? Sì, anche gli idranti sono contemplati. Prima ti bagnano e poi ti elettrificano. Ottima idea, tra l'altro. Comunque, in effetti il volto pulito delle forze dell'ordine ancora una volta è ristabilito dopo essersi autoassolti per la morte di Stefano Cucchi. Si dicono che ci sono anche altri modi un po' più eleganti in effetti per massacrare di botte la gente, che possono essere per esempio anche creativi e insegnare un po' di scienza, tipo ti bagno e poi ti fulmino. Comunque, se adesso che lo sapete, la prossima volta che andate in piazza portatevi il cambio, almeno così se vi bagnano con l'idrante poi avete qualcosa di asciutto. Comunque, niente, l'invito, insomma, staremo a vedere, ci vediamo ancora una volta in piazza, vedremo insomma queste nuove regole di ingaggio. Sicuramente il dato forse che ci interessa rispetto a questa notizia è un po' anche vedere quali sono le nostre occasioni per un po' lavorare anche nel creare quelle contraddizioni che abbiamo visto anche crearsi dentro la FIOM nella tre giorni a Torino. Quindi sicuramente questo episodio sta cercando di essere completamente riassorbito subito dentro appunto subito una manovra contenitiva della strapotere delle forze dell'ordine nei confronti di chi è in piazza. Ebbene, di fatto invece è importante continuare ad andare ad aprire un po' quest'aura di sicurezza che ha toccato prima di tutto gli operai, ma poi appunto continua a creare quest'aura retorica intorno poi a quelle che sono quella che è la discesa in piazza. E niente, comunque ci sembrava così importante dare un piccolo spazio a questo. Adesso vi lasciamo di nuovo un po' di musica, poi passiamo a cose più serie. Ovviamente non possiamo non concludere qualunque intervento sugli sbirri dicendo ACAB. Extraordinary time spent ordering my life, working overtime nights, holding wires and mics under these lights. But besides that, always find time to get love and give it right back. I'm just an ordinary guy, a baby from the 80s, got a little bit of ADD, perhaps maybe even made to be sedated and such. Then we work while they break, then they say that we play too much. I ain't known to make it out to every single event. Sometimes I live in my bed with just a pad and a pen and a broken iPod I bought stolen from the block. Got holes in the soles of a third of my socks, neck deep in contradiction in the gut of the beast. If you in debt, then everything you own is on lease, cause money don't translate to talent. Money and talent don't mean you're guaranteed anything, honey. It's funny when conditions cause anything to happen. Finally got a comma in my check account balance. The 27-year challenge of the curse, maybe even outlive Janice, Jimmy, and Kurt. I'm just an ordinary guy, ignoring all the hype, I let it all pass me by. I got one life and one mic, but I'll try to always stay humble with a fist in the sky and a bowl of brown rice. Just an ordinary guy. Extraordinary time spent ordering my life, working overtime nights, learning wires and mice under these lights. But besides that, I'll find time to get love and give it right back. I'm just an ordinary guy with music as a job. If I could do it, the least you do is give it a try. There's no use just sitting asking why these ballers rock chains like a ball and chain just to stay fly. Man, I'm cool with just a pair of Reeboks and fans. Some artists think they too hard to talk to their fans. I might battle just to keep his heart sharp. Maybe take a ride to the Jewish park of Seward Park, where the view of Lake Washington is not too far. But far enough, it might be a minute till we come up. And people keep asking how I dropped all the weight. More work and less food on the plate. Man, just a simple plan with a little bit of self-discipline to keep writing, keep spitting, keep listening, and to keep on doing what I do to get a salary. My number one mission is to make my son proud. I'm just an ordinary guy, ignoring all the hype. I let it all pass me by. I got one life and one mic, but I'll try to always stay humble with a fist in the sky and a bowl of brown rice. Just an ordinary guy, extraordinary time spent ordering my life, working overtime nights, holding wires and mics under these lights. But besides that, always find time to get love and give it right. I'm just an ordinary guy. Sometimes I ponder if the consequence of all of this, trying to be an artist, is harder than it needs to be. Wipe the sleep in my eye and set the beast, cause the grind never ceases. I know time moves slow. We on the road again. I hate leaving, but I love coming home again. It's like we only see the cities at night, but phone calls and voicemails from home make me feel alright. I'm just an ordinary guy, ignoring all the hype. I let it all pass me by. I got one life and one mic, but I'll try to always stay humble with a fist in the sky and a bowl of brown rice. Just an ordinary guy, extraordinary time spent ordering my life, working overtime nights, holding wires and mics under these lights. But besides that, always find time to get up and give it right back. And give it right back, we give it right back. Always find time to get up and give it right back. We give it right back, we give it right back. Always find time for love and right back. We give it right, we give it right back. We always find time for love and right back. We give it right back, we give it right back. We find time to get love and give it right back. 11 e 22 sui 105.250, andiamo avanti con la puntata. Come dicevamo in apertura, ci spostiamo un attimo a Roma per cominciare a parlare un po' di questa questione di legge di stabilità e un po' diciamo le sue conseguenze direttamente implicano il mondo della formazione. La sede del PD è stata di fatto occupata qualche giorno fa da un gruppo di ricercatori dell'INEA e del CRA, che sono enti di ricerca pubblici in campo agricolo ed alimentare. Mercoledì 29 di fatto un gruppo appunto di ricercatori di questi due enti è entrato nella sede del PD in via Sant'Andrea delle Fratte a Roma per protestare contro quelli che sono poi di fatto le conseguenze dell'assetto che il governo ha impostato, quindi denunciando l'articolo 32 in particolare, che chiude di fatto l'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, e sovraccarica il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, ovvero il CRA, a un punto tale, cioè di un debito di circa 22 milioni di euro, sostanzialmente prodotto da il direttore generale Manelli, l'ex il direttore uscente, che al momento è anche sotto indagine per questo. La denuncia dei ricercatori è che le politiche del PD ricalcano quelle di Brunetta nel 2008, comunque ricordiamo tutti che hanno stato il 2008 per l'università e per la formazione, e diciamo denunciano un po' la svolta presa dal Partito Democratico. Ecco, sicuramente è molto interessante, diciamo, l'individuazione del PD nella, diciamo, come responsabilità. Un po' meno interessante è la richiesta di pensare, diciamo, la richiesta un po' corporativa e anche un po' a ribasso di andare al partito a chiedere che risolvano i problemi della povera ricerca, perché sappiamo perfettamente che comunque è una trama intessuta in maniera ben più complicata, quella che fa sì che le risorse vengano mal distribuite, elevate dalla ricerca per essere investite nell'aziendalizzazione poi di fatto dell'università, quindi è un po' riduttivo. Però sicuramente, diciamo, il merito di questa azione è di portare un po' alla luce quello che di fatto sta accadendo, che non è una riforma sostanziale, ristrutturazione di organi particolari, bensì è semplicemente uno spostamento ulteriore delle risorse da luoghi più accessibili, come possono essere stati appunto borse di studio piuttosto che enti, a diciamo una redistribuzione sostanzialmente di quelli che sono i fondi. Quindi appunto loro ricercano la buon'anima del PD che avevano individuato nel 2008, questi poveri cari, noi sicuramente sappiamo che non la troveranno, ci dispiace per ciò, ma vale la pena sicuramente approfondire appunto quali sono di fatto queste sfumature che vanno a a ridefinire questa distribuzione, dal momento in cui non sono visibili i cambiamenti strutturali, ma c'è bisogno di fare un attimo chiarezza tra una serie di piccoli commi di sfumature linguistiche piuttosto che. E appunto tra poco andremo a fare un po' di chiarezza su tutto questo con una diretta, quindi per prepararla vi lasciamo ancora un pezzo musicale e torniamo subito in diretta con Parole Ribelli. Hey, whether you ballin' or broke, wanna find a bow tie, follow the smoke. Everybody wanna fly, but nobody wanna know how that whole thing started. Whenever you were born, yeah, go back farther. Deep in the jungles of the Ganges River, 2000 BC, see Hindus and Sikhs, shitloads of weed. Very first plant cultivated for the fabric. And anytime they burned it, the people started dancing. Medicine man put the people in a trance that they transported west, brought by brown farmers, shared with the Rastas and said it's called ganja. Greeks and the Turks traded gold for tough, and soon Shakespeare spoke the shit and wrote dramas. Soldiers Napoleon led rides civilians of stashes of hash, took it back to France with him. Christopher Columbus, first drug smuggler. Slaves made to throw his shit, but smoked some of it to laugh at the master. Plotting his disaster, and everywhere the immigrant went, he had a drag there. I'm just stating the facts. If I'm mistaken, my bad. I'm just a messenger spitting Wikipedia raps. I got a Sean Kemp in my pocket, cutting in half. It's two Gary Paytons. Don't ask, do the math. I know cats who got killed for the stack. Who'd probably be alive if the market for that bammer wasn't banned. You put it in the hands of the many who mark territories in blood. Kinda scary, huh? Ain't even talk about the ones with the badge. The ones still waging that war inside their head. The same ones who probably could use a couple hits. And I wouldn't be surprised if a lot of fuckers did. Make you wanna roll up a J and say shit. I ain't gonna be the one again. E mentre leggevamo l'articolo, era arrivato un sms al 346-667-3263 che andava invece a commentare l'articolo che abbiamo letto in precedenza, quello su i provvedimenti rispetto alla gestione di piazza. Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: in uno scontro militare di piazza perderemo sempre. La via della costruzione di alternative, occupazione, autoproduzione, espropri eccetera, è parziale e naturalmente illegale, cioè torna a diventare uno scontro in cui perdiamo. E questa è l'enorme galera che ci contiene, o mi sbaglio? Vabbè, sulla prima parte del messaggio credo che siamo d'accordo, cioè non credo che nessuno di noi pensi, insomma, che in determinate situazioni sul piano dello scontro militare possa essere quello vincente. Dopodiché ci interessava, insomma, commentare questa notizia, metterne anche un po' in luce l'ipocrisia, e dopodiché comunque gli scontri in piazza avvengono, quindi comunque essere, insomma, consapevoli almeno di quello che abbiamo di fronte. E sulla seconda parte sinceramente non ho capito molto bene, cioè sono d'accordo sul fatto che appunto quella non possa essere l'unica via, si debbano costruire anche, insomma, percorsi alternativi che non siano sempre solo sulla difensiva, ma vadano anche un po' all'attacco su altri piani. Però non ho capito insomma bene la seconda parte del dire che anche quello diventa poi uno scontro in cui perdiamo, quindi non so, chiediamo eventuali delucidazioni all'ascoltatore, insomma, comunque speriamo di non averti messo comunque depressione. No, infatti dai, volevamo anzi farci quattro aprire ridate. La mattina con un po' di notizie di colore, però appunto vabbè, volevamo perlomeno leggere il messaggio visto che insomma andava a commentare quello di cui parlavamo. Vi lasciamo al pezzo che abbiamo interrotto e poi torniamo in onda con la diretta. The foundation's done. The more things outlawed, the more outlaws run. George Washington himself, Congress puffed and chronic. Now the face gets shaved, but it's shit ironic. That by Marley stage, that ganja, ganja, that one love, bro, it's medicine that makes you stronger. Equated to me chilling, isolated in my apartment, blazing at age of day and slaying Grand Theft Auto like, damn, I'm way more creative. 20 minutes later, staring at the paper. At 4:20, it was all about the love, and I was 4:31, and I'm paranoid as fuck, like, what these hippies, where are my real friends, huh? Are you playing, happy, is that gonna feel bad? You need my scene, your eyes are real red. Khalifa's gonna fuck your girlfriend. I'm not against legalization, but not at all. I'm against glorification. You are not some dog, moderation, that's the key. And the door is unlocked, it's up to you how you use it, make the call. Come on. So when you puff that, thinking that's how it is, blowing more trees than the northwest wind, knowing that you're six times as likely as them to do time, if your skin tone is darker than his, the last thing that you want on your mind, but demand and supply, think command of your high, bruh, hey, listening, we're trying to drop gems. Hey, yo, shut the fuck up and pass that shit. Okay. Cose che non riuscirò a capire mai, cose che vorrei davvero dirti, sono cose che non riuscirò a capire mai, parerò. Balli come un ticket, in mezzo a parole vuote, atteggiamenti del menga, accordi su scale pentatoniche, senza gradini, cado una valanga, tipo le comiche, firmati Louis Vuitton, ma sto più serio di Buster Keaton, dividono il tempo in metriche mazzurca, mentre vado più giù di Maiole, Maiorca, fenomenale più del Lipton, e gote a solfo, non basta l'arca di Noè per mettervi in salvo, ne raccontate più di Silvio, la credibilità è tutto. Non è l'abito che fa il monaco, marcisce l'intonaco, dove abito il debito crea dibattito, ma io non c'entro nulla, ve lo dico subito. State in scimmia di furga in coro, ditemi solo quanti ne siete. Il consorzio si allarga, è una lobby targa oro, so già che sapete, non ve ne. Se mi volete non bastano tutte le vostre monete, so bene da dove venite. Vi ho visto arrivare in punta di piedi, elemosinando un sì da me. Mo mi tirate pure in mezzo, cagandomi pure il cazzo, sorbole. Certe cose proprio io non le capisco, ma vorrei parlarvene. Sono cose che non riuscirò a capire mai, cose che vorrei davvero dirti, sono cose che non riuscirò a capire mai, cose che vorrei davvero dirti. Dice come va? Come vuoi che vada, va, claro bro, si sa che sta routine dei saluti a volte sfava, è come nella gemme vive viva, mi parlano di Flava, unità nella dancehall, sì, ma quando mi va hip hop, non stop, uso ogni disco nella stiva. Mo guarda li sti vandali, tipo punk a bestia alla deriva. Ava come lava, non basta un'ostia per un'intera comitiva. Con il sapone non si leva quella crosta radioattiva. È progresso, hai voglia vangeli, corani, torah, pure se diventi Buddha fa lo stesso. Di sicuro non vi è nulla, ma forse una cosa l'ho ben chiara e mi scintilla. La soluzione mi è apparsa assieme alla Madonna, fotomodella, è tutta una farsa. Dormo sulle cose come stanno, e ninna nanna e ninna oh, ma non ho sonno. Fatti vari tra amici reali e immaginari, tra questa e quell'altra dimensione da qualche anno esisto solo nei miei pensieri. Cose difficili da respirare, così difficili da dirti adesso qui. Ci sono cose che non riuscirò a capire mai, cose che vorrei davvero dirti. Sono cose che non riuscirò a capire mai, cose che vorrei davvero dirti. Allora, 11:35, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Come vi abbiamo annunciato pochi minuti fa, iniziamo con gli approfondimenti. Abbiamo a questi microfoni Alessandro Ferretti, ricercatore dell'Università di Torino, che intanto salutiamo, ringraziamo per essere di nuovo con noi su queste frequenze. Ciao Alessandro, ci senti? Ciao, vi sento, grazie a voi. Ok, allora un saluto a te. Con te vorremmo appunto provare un po' a districarci in mezzo, insomma, alle notizie di queste ultime settimane. Insomma, qua in radio abbiamo già commentato più volte quello che era stato l'annuncio della buona scuola di Renzi, che prevedeva tra le altre cose appunto l'assunzione di 100.000-150.000 precari. Insomma, anche sui numeri c'era poca chiarezza. E insomma, avevamo diffidato un po' da subito di questa cosa, perché l'impressione era che appunto l'idea fosse un po' quella di dare con una mano e togliere con l'altra, che è sempre insomma uno sport molto in voga negli ultimi anni, e che soprattutto questo fosse poi subordinato a quella che è insomma un vincolo molto più importante per il paese tutto, che è la legge di stabilità, e che quindi appunto si dovesse poi andare a vedere un po' tra le pieghe di questa legge per vedere effettivamente se e cosa cambierà per i precari e in particolare per i ricercatori in questo paese. E infatti sembra che un po' l'inghippo ci sia. Io ti lascerei subito la parola su questa per spiegarci insomma un po' che cosa cambierà e che cosa sta succedendo. Sì, quello che sta succedendo in università è un po' la testimonianza del fatto che questi 100.000-150.000, anche lì non è chiaro il numero, precari della scuola, verranno assunti solamente perché c'è una sentenza contraria allo Stato italiano che ha assunto e licenziato persone per anni in maniera del tutto illegale, e che il fatto che alla base non ci sia una reale volontà di assumere precari dimostra appunto l'università, perché si sta muovendo proprio esattamente nella direzione opposta. Nella legge di stabilità Renzi, tra le tante cose che ha messo in filate dentro, cioè, ha infilato un comma di una riga soltanto con il quale condanna la sostanziale precarietà moltissime persone che lavorano da anni, a volte anche 10-12 anni all'università, e li condannerà a un'esistenza precaria, perché toglie l'obbligo che era stato messo di assumere un precario a tempo indeterminato ogni volta che viene chiamato un professore ordinario. Questo vincolo era l'unica cosa che si frapponeva tra il precario e la precarietà infinita. E ovviamente era un vincolo di buon senso, perché non si può pensare di avere una università che è basata sostanzialmente solo sul lavoro dei precari, e invece evidentemente Renzi pensa proprio quello, che la cosa migliore per gestire l'università sia avere una buona percentuale, che può arrivare, adesso siamo già al 50, ma diremo sicuramente ancora di più, di precari che sono ovviamente in condizioni difficili, sottopagati, sfruttati, e che fondamentalmente presto diventeranno semplicemente persone che se lo possono permettere, perché un po' come succede nel giornalismo, la ricerca diventerà la situazione in cui chi riesce a lavorare in quel campo è perché ha una famiglia alle spalle che gli copre i buchi degli stipendi, che gli dà una rete di salvataggio, e quindi a prescindere da qualunque capacità, quelli che potranno andare avanti presto saranno semplicemente quelli ricchi di famiglia, che tra l'altro è un ritorno al passato. Da un tempo l'università era un balocco per le classi alte, e adesso lo tornerà molto presto, sembra. Sì, infatti quello che però insomma ci sembra un po' che stia succedendo e che non ci sia ancora, insomma, tanta consapevolezza su questo. Sicuramente non siamo di fronte a un intervento di grande ristrutturazione come possono essere state le riforme degli ultimi anni, che infatti hanno visto anche una risposta di un calibro differente, penso a tutto il ciclo della riforma Gelmini, ma anche prima. Però dall'altro mi sembra che ci sia anche una capacità comunque abbastanza buona in termini di comunicazione da parte di questo governo nel, insomma, non fare tanta chiarezza su quello che effettivamente sta facendo, di tentennare un po', di rimandare un po' i problemi, perché anche questa cosa appunto del blocco degli stipendi adesso verrà sistemata per un paio d'anni, però il problema sostanzialmente è solo rimandato poi al futuro, quindi probabilmente c'è anche un po' un problema in questo senso nel, insomma, nell'appiattimento un po' di questo momento, nella mancanza di risposte. Prima stavamo commentando questa notizia dell'occupazione della sede del PD a Roma da parte di un gruppo di ricercatori, però appunto sono sempre casi come dire un po' isolati, ancora poco incisivi. Assolutamente d'accordo con te, Francesco. Anche il problema poi è che purtroppo questo governo, come quelli che l'hanno preceduto, è maestro nel dividere, perché anche questo provvedimento, che sembra veramente assurdo, ha suscitato reazioni diverse nei precari, perché alcuni precari, quelli pronti per essere assunti, sono ovviamente infuriati. Ma i precari un po' più giovani, quelli che non avrebbero comunque diritto ad avere un posto fisso perché non hanno ancora dei requisiti, invece dicono che è giusto così, che la priorità va data ai contratti precari di timpà, perché questo li metterà poi in condizione a loro di essere assunti. Ed è per questo che alla fine non c'è una voce unitaria contro questo comma, perché purtroppo i precari sono divisi e l'abilità vera della divisione si contraddice appunto in un balbettio. Alla fine qualcuno si esprime, qualcuno no, e nel frattempo il governo, appunto, come dici tu, rimandando, aggiustando, riesce a navigare serenamente facendo dei sfaceli inenarrabili. Eh sì, e tra l'altro quello che sembra anche un po' profilarsi, insomma, come direzione generale, che allo smantellamento progressivo dei fondi per la ricerca, appunto alla totale incertezza sul futuro dei ricercatori e dei precari, andrà progressivamente anche a sostituirsi un po' il lavoro gratuito degli studenti, che invece, insomma, per arrivare alla fine del faticoso percorso di studi devono passare per tirocini, stage, eccetera eccetera, e che quindi in parte andranno un po' a tappare i buchi di questi provvedimenti. L'abbiamo già visto anche un po', insomma, con una serie di eventi anche più locali sull'Università di Torino, penso a Cunito, una serie di cose di questo tipo, che sembrano appunto proporre un po' quella direzione lì, cioè smantellamento progressivo di chi dovrebbe lavorare dentro l'università e dall'altro un sovraccarico sempre più ingente sulle spalle degli studenti che vanno a lavorare gratuitamente appunto dalle biblioteche a qualsiasi altra cosa che, insomma, gravita attorno al mondo della formazione. Eh sì, purtroppo è proprio così. Anche in questo l'America tra l'altro ci mostra la strada, perché adesso l'attuale composizione della docenza statunitense è fatta da un 20% di strutturati, da circa un 60% di precari storici senza nessuna speranza e da un 20% di studenti. Cioè, già adesso in America gli studenti reggono un quinto della didattica, e ovviamente queste idee qua sono viste con grande interesse da parte dei capitalisti nostrani, che non vedono l'ora. Addirittura Confindustria, in un'intervista, il presidente dell'Education di Confindustria ha affermato che secondo lui il terzo anno della laurea triennale deve essere un tirocinio di 1000 ore, quindi eliminiamo completamente lo studio di un anno, quindi su 3 anni ne sparisce uno, e ovviamente questo tirocinio viene fatto e gestito, immagino, un po' dall'università, ma soprattutto poi da imprese che avranno la solita manovalanza a basso costo, che permetterà ovviamente di togliere ulteriori diritti a quelli che lavorano invece con uno stipendio. Eh sì, tra l'altro appunto rispetto a questa direzione verso il modello statunitense, proprio l'altro giorno ci ritrovavamo a ragionare con Andrew Ross, che è, insomma, un docente statunitense che si è occupato della questione del debito, proprio appunto di questa progressiva, insomma, uniformarsi, seppur, insomma, siamo ancora molto lontani dal modello statunitense, però anche tutta la questione dell'indebitamento, quindi della ricattabilità degli studenti che un po' si ritrovano a essere macinati in questo meccanismo, sicuramente un po' si scorge all'orizzonte, seppur appunto ancora in maniera molto embrionale, credo. Certo, purtroppo però la storia ci insegna che i cambiamenti avvengono rapidamente. Infatti io quando racconto ai miei studenti che quando io ero all'università pagavo 300.000 lire e quando sono andato fuori corso mi avevano ridotto le tasse, è lo sguardo che hanno che colpisce, proprio come se stessi parlando di un altro mondo, eppure mi sono laureato 20 anni fa. Negli ultimi 20 anni l'università è cambiata già completamente, e quindi purtroppo anche quello che adesso sembra embrionale, magari nel giro di 10-15 anni potrebbe invece diventare la norma, se non si fa qualcosa prima, ovviamente. Eh sì, infatti l'augurio, insomma, che ci facciamo è di provare un po' a mettere insieme le forze, anche rispetto a quello che dicevi tu prima della divisione che questo provvedimento ha creato. Forse bisognerebbe, insomma, provare ad adottare uno sguardo più sul lungo periodo, non alla contingenza specifica, capire che siamo un po' di fatto tutti sulla stessa barca da questa parte della barricata, diciamo, che quindi forse... Insomma, l'augurio almeno che facciamo è di, esatto, prima di affondare tutti insieme, di provare a metterci tutti assieme, che è un po', insomma, l'auspicio per quest'autunno. Insomma, adesso ci sono già delle scadenze di mobilitazione abbastanza vicine, vediamo, insomma, speriamo che possano essere un primo inizio, ecco. Sì, impegneremo per farle funzionare. Noi all'università adesso stiamo cercando di far passare un po' la data del 14 novembre insieme ai... un po' gli strutturati, un po' i precari, un po' i cooperativisti, in maniera che almeno l'università si cominci a creare un nucleo di persone che lavori in maniera trasversale su prospettive un po' più ampie di quella della microrivendicazione corporativa. Assolutamente. Allora noi, Alessandro, ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro e speriamo, insomma, di riaggiornarci presto anche in università con, insomma, qualche tentativo di provare a costruire qualcosa. Grazie mille a voi che ci siete sempre, a presto. A presto. Grazie mille Alessandro, a presto. Ciao. Ciao, ciao. E allora 11.46, dopo questa interessante diretta con Alessandro Ferretti, ricordiamo ancora una volta i contatti 011-2495-669, 346-6673-263 per i messaggi. Nel frattempo è arrivata una specifica rispetto alla richiesta di chiarimento che si faceva rispetto al commento all'articolo sulle nuove strategie di contenimento del conflitto da parte di contenimento o, diciamo, modificazione un po' delle sue forme. Per chi si fosse sintonizzato ora, commentavamo un articolo che, diciamo, tentava di riassorbire completamente un po' la contraddizione che si sta creando un po' dentro ai sindacati confederati, che abbiamo visto per esempio essere, diciamo, come risposta alle cariche fatte l'altro giorno a Terni. Si è scoperto, diciamo, anche il grande pubblico non ha più potuto ignorare, nel momento in cui sono stati toccati i santi operai, che di fatto in piazza la gente viene caricata senza alcun motivo. E quindi il riassorbimento di questa notizia è stato congegnato con l'ennesimo segno del fare, e quindi via meno manganelli, più gas urticanti, più spray urticanti, meno manganelli, più pistole taser e meno manganelli, più idranti. Quindi, diciamo, se arrivava un messaggio che diceva comunque sul piano militare non si riuscirà mai ad avere uno scontro paritario, su questo ci siamo detti, diciamo, finché le cose le dire. I mezzi a disposizione delle due parti sono questi, assolutamente, ma soprattutto che non debba mai essere un piano, uno scontro militare, diciamo, nessuno punta ad avere un esercito meglio addestrato del loro, anzi. Comunque, chiedevamo un po' di chiarimenti, il messaggio dice: intendo dire che ad un'occupazione, per esempio, lo Stato reagisce con uno sgombero, che è un'azione militare, la famosa guerra interna, il capitalismo trasforma tutto in soldi, lo Stato tutto in repressione, e se rimaniamo sul campo avverso e avversario le prendiamo. Ah, non ho idea di come fare a spostare la lotta su un terreno veramente sociale, dove noi siamo i numeri uno, no alla depressione, andate alla grande, ciao. Ah sì, ci chiedevamo scusa se avevamo depresso qualcuno con quel commento, perché ci sembravano dei toni un po' mogi. Siamo contentissime e ci uniamo in questo no alla depressione, ma sicuramente non si può non essere d'accordo rispetto a, il piano strettamente militare, diciamo, o muscolare, che si voglia, che per esempio uno sgombero mette in atto. Certo è che, assolutamente non vogliamo precludere nessuna critica, non siamo di quelli non fai una critica finché non hai una soluzione. Il pensiero critico, grazie al cielo, viaggia magari a una velocità differente rispetto a quella che è la possibilità di trovare soluzioni, che per noi poi devono essere sempre solo collettive. Quindi con i tempi che sappiamo la collettività purtroppo impone. Insomma, per chiudere un po' questo commento, sicuramente appunto mette in atto una dinamica su quel piano, però sappiamo anche che non solo, quindi non riduciamolo noi a una, diciamo, non semplifichiamo una cosa che poi di fatto mette in atto meccanismi molto complessi. È vero che non può essere, diciamo, un terreno d'approccio finale verso cui tendere, ma devono essere sempre mezzi. È vero che dobbiamo assolutamente essere in grado di praticare forme di conflitto sempre meno prevedibili e sempre meno contenibili. Non è tanto un discorso, credo, di dove mettere lo scontro in sé per sé. Il conflitto va acceso e portato avanti ovunque ce ne sia occasione e senso, e quindi possa sedimentare alterità e pratiche di autogestione, auto-organizzazione. Dopodiché, senz'altro, là sul piano, diciamo, puramente fisico, siamo inevitabilmente contenibili. Dobbiamo esserlo sempre di più, su tutti i livelli. E comunque, niente, ringraziamo l'ascoltatore o ascoltatrice per questo scambio, insomma, anche importante che mezzo della radio funzioni anche in questo senso. Adesso facciamo un po' di pausa musicale dopo, insomma, questo lungo approfondimento e ritorniamo tra poco in diretta con Parole Ribelli. Giorno dopo giorno, una rima dopo l'altra, lei che urla forte. Parla di storie andate storte, parla di morte. Guardo gli altri negli occhi e vedo indifferenza. Sento voci che girano intorno a me senza significato, vuote come il silenzio di chissà, ma non dirà mai la verità. Testimone di qualcosa che scotta, qualcuno paga mentre qualcuno scappa. Qualcuno dice verità che nessuno vuole sentire. Qualcuno piange amaro perché non vuole cambiare, costretto dalla vita ad odiare, convinto che sia meglio sognare. Se hai scelto di mentire io non mentirò, se hai scelto di colpire io difenderò. Io scelgo di specchiarmi nella vita, nel ritmo fino al collo gioco la mia partita. La storia è sempre la stessa e non finirà qui, giorno dopo giorno. La storia è sempre la stessa e non finirà qui, una rima dopo l'altra. Una rima dopo l'altra, ice, ice, ice, giorno dopo giorno, dopo giorno. E 58, continuiamo con Parole Ribelli in questo martedì mattina 4 novembre. Prima di proseguire con gli approfondimenti andiamo a presentarvi un appuntamento che ci sarà domani all'Università di Torino a Palazzo Nuovo con la proiezione, la prima proiezione del del film lo chiamavano Te Pepa, che è stato curato dall'InfoShop senza pazienza. E, il film racconta la vita di Ennio Sinigaglia, bandito e rapinatore, che appunto ripercorre un po' la sua esperienza. Noi adesso vi facciamo sentire il trailer, che tanto è molto breve, dura un paio di minuti, poi vi diciamo qualcosa in più sull'appuntamento di domani. Nel frattempo già sta partecipando anche alla rivolta Le Nuove? Beh sì, tutti e due io l'ho fatto. Sia del 69 sia del... Quella del 69 e quella del 71. E abbiamo demolito tutto quanto. E che io volevo farti saltare la matricola. Far saltare la matricola, buttare via tutti, ambizioso. Per buttare via tutti i verbali. Comunque se arrivate sui tetti. Sì, sui tetti sono andati su, chi voleva andava e veniva. Sì. Ma partecipavano tutto. Invece quella del 71, con Durelli è andato via, caro, perché ha ammazzato il vero raggio della pizzeria. Ah, è vero. Lui è andato su di Rosario con Durelli. Ecco, è andato su e se n'è andato. È riuscito anche a scappare. Lui è riuscito ad andare via. C'era anche Martino Zichitella, che poi diventa uno dei nati. Lui faceva le rapine, che era una bella batteria anche insieme a Ugo Benassi. Che poi è stato ucciso a caccia di Cuneo da Antimonelli. Per questioni interne. L'ho troppo spiegato, perché diceva che voleva ricattare giù a Racca. Voleva ricattare, farsi avere dei soldi, e lui ha cominciato io quella canto, voilà, e lì. Sì, ma dopo questa rivolta non c'erano stati tutti i trasferimenti? Tutti via, per un parte in Sardegna eravamo. Sì, cioè li prendevano tutti in fila. Insomma. Botte e camminare. Schiavettoni. E botte. Traghetto. E botte. E Sardegna. Botte. E giù in Sardegna. Io dove sono andati finiti? Tempio e Alghero. Allora Alghero era di punizione. E lì sono un dramma e torna con Cavallero, anche lui. Cavallero lo conoscevi già prima? Sì, prima. Lui era una batteria. Sì, no, lui aveva la sua via. Se poi guardiamo, lui dice che è stato il primo rapinatore in Torino, e invece è cominciato prima io che lui. E difatti lui mi dice, dì, ma se sti il maestro, sei tu. Io lui sempre. Tu sei il cervello per lì, la tua memoria te. Sempre, chi ha sempre il piemontese lì a Porta Azzurra. E questo appunto è il trailer, lo trovate comunque su YouTube digitando lo chiamavano Te Pepa trailer presentazione. L'appuntamento con la proiezione del film sarà appunto domani pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Nuovo. Non sappiamo ancora dirvi l'aula, comunque verrà indicato ovviamente nella giornata di domani, quindi per chi fosse interessato, insomma, guardatevi attorno entrando in università, troverete l'informazione che vi serve. Oppure cercatela sui nostri profili telematici. Esatto. E adesso lasciamo ancora un pezzo musicale, poi cambiamo argomento, ci spostiamo alla cavallerizza reale occupata. Per il culo con X Factor, col talento lucidato sopra il piatto, mentre poi è solo un morto dopo un altro, dopo un altro, dopo un altro. Ehi mano, sai che cazzo di posto sono finito qua, per non pensare ai guai cantano sei un mito qua, non mi è concesso manco di essere un fallito, io mi metto l'abito o aspetto sabato per stare zitto, poi me leggi sul giornale che sono morto, proprio quel giornale col suo fare disinvolto, insegna come usare una pistola, come caricare un colpo, canta la movida in faccia la vita che raschia il fondo, ma questa merda non molla, e tutto quanto è patetico, per questo che mi dedico una giolla, mentre Teppico controlla, conta tutti fino a zero, mette in ordine alfabetico la folla. Quando si poteva fare ancora i conti con le stelle, avevo un diamante io, un diamante tu, due perle. Adesso che giriamo avvelenati peggio di un serpente, siamo uno zero io, uno zero tu, due merda. Cantano tutti, cantano tutti, mi bappa nulla, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. Cantano tutti, cantano tutti, mi bappa nulla, l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. Mamma, non sai che paura fumarmene una, con quattro amici a Trastevere sotto la luna, era una grossa tribù con gli artigli del Puma, o stanno lessi su Facebook a fare la schiuma, tanto cantano tutti, mettono insieme le storie dei primi e gli ultimi, qui a contraffare il tuo talento, il talento lo butti, e l'industria lo prende nel culo col paraurti, cazzo credi non c'ho soldi né tempo per le ferie, no, non sto a fare la capitale su un impero di materie, se mi mettono davanti a robe serie, mi sintate il traffico di sangue nelle arterie, sicuro non lo so che te sei messo in testa, ma qui chi lo rinnova muore come Tesla, bravo, fatti una cantata con tutta l'orchestra e poi digliela Stefano a sua madre che è festa. Cantano tutti, cantano tutti, mi bappa nulla, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. Cantano tutti, cantano tutti, mi bappa nulla, l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano, Stefano Cucchi. Cantano tutti, mi fa paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. La barricade, alors arrête de jacasser, va remplir le jerrycan. C'est la guerre des nerfs, j'ai choisi mon camp. Planter mon drapeau, lever le poing, essuyer mon sang. Un état d'esprit, une façon de faire, de voir, de façon claire, de croire. En utopie, son reflet dans le miroir. Je suis cet anarchiste qui n'a pas la foi. Le mec en sale au milieu de cette foire. Garde ta morale, connard, et va pas te rappeler ailleurs. Je laisse mon de costard et de jolis tailleurs. Militant, minoritaire, et je me fous que ça le fasse. T'es qu'un street player sur le retour, alors emballe un peu des sales menaces. Dans les tranchées, la boue, la glaise. Le rouge et le noir, c'est lourd, ça pousse, ça pèse. Que les polos taisent leurs critiques non fondées. Je confesse mes petits caprices sales porcs. J'aime voir un œil poché sur la face d'un condé. Maintenant, ma vengeance vous guette. Ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. Résister, ma vengeance vous guette. Ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. On lutte avec le style, comme André l'a dit. Liberté totale, car rien n'est sacré. Car en fait que la guerre sociale a déjà éclaté. Pas de retour en arrière, en clair, il s'agit de draper. Impossible de fuir, l'empire devra s'adapter. Si ces sbires veulent ta tête, tant pis, seul t'importe ta quête. Écrire des rimes, être libre, tu crains nos baskets. En bref, trouver ta voix, retrouver les tiens pour lutter. Dans la pénombre d'un monde qui s'éteint. Enfin, affine ton style, apprends à aimer la solitude. Crame ta résine, tant qu'on s'en circule. Regarde, vends ton mal-être, achète ton suicide. Des gadgets et des marionnettes derrière des vitrines. Un monde de vigiles, de bourreaux, d'apparence, de boulot inutile. Des primes et jours de carence. Ils savent-ils à quel point tu t'en tapes de leur espoir. Tu n'aimes que ton rap, couleur rouge et noire. Ma vengeance vous guette. Ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. Résister, résister, organiser. Ma vengeance vous guette. Ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. On lutte avec le style, comme André l'a dit. Touché comme une envie de poser des bombes, de tout faire voler en éclat, marre de regarder ce monde, de constater qu'on en est là. Je veux changer de planète pour changer la vie, changer l'amour, changer les choses pour changer ta vie, changer le fond, changer la forme, changer de rapport. Et si ce son ne te plaît pas, et pas mon pote, t'as qu'à changer de rappeur. Et tu galères, tu t'agites, cherche une esthétique, tu cogites à remplir le vide, mais tu vas trop vite, tu caresses, inhale, écoute, ressens, vois, et affronte cette planète qui pourra tourner sans toi. Leur enfer bien propre, approche la syncope, donc invoque l'histoire des luttes qui vous prête main forte. Maintenant, resserre les rangs, la terre entière peut aller se faire voir, t'as choisi ton camp, couleur rouge et noir. Ma vengeance vous guette, ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. Résister, résister, organiser. Ma vengeance vous guette, ma vengeance vous guette. Nous sommes en guerre, pas pour la paix et la victoire. On lutte avec le style, comme Angela Davis. Le 12:10 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. Ricordiamo ancora una volta i contatti 011-2495-669 346-6673-263 per scriverci. Come dicevamo a inizio di puntata, andiamo a collegarci ancora una volta con un'occupazione che seguiamo da un bel po' ormai, la cavallerizza occupata, che per questo novembre ha sicuramente in serbo un sacco di cose per i nostri ghiotti ascoltatori. Siamo in collegamento con Roberta. Roberta, ci senti? Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Eddie, come va? Ciao Radio Blackout, cari ascoltatori, come state? Tutto bene? Non, magari ti rispondono al cellulare, non saprei. Comunque, allora, dicevamo, questo abbiamo visto un po' di... abbiamo visto che ci sono un po' di movimenti in cavallerizza, che questo è un novembre che si annuncia abbastanza denso, sia da un punto di vista dell'assemblea, sia anche da un punto di vista proprio dello stabile, nel senso in cui, come abbiamo già detto varie volte, uno diciamo dei pezzi, lo scempio della cavallerizza, è anche questa cessione all'università, questa cessione centenaria all'Università di Torino, che ha fatto sì che ancora una volta l'università spendesse milioni di euro per un'aula magna che sarà la solita vetrina per presentare la facciata scintillante di un edificio che poi altrove, diciamo fisicamente, e dietro la facciata metaforicamente, esatto, casca a pezzi, e che quindi, esatto, l'università ancora in questo caso è complice di questa speculazione, e questo sarà il mese dell'inaugurazione di questa aula magna. Esattamente, questo sarà il mese dell'inaugurazione di questa aula magna. Ma appunto si va oltre, quindi io ti voglio... ti volevo chiedere di fare un po' una panoramica su questo mese. Noi di cavallerizza prendiamo questo mese e cominciamo venerdì inaugurando novembre, che sarà ricco di proposte per una cavallerizza che si avvicina all'inverno e al varie inaugurazioni matte e folli, ma che vuole continuare a diffondere cultura, una cultura più vicina alle persone, quindi una cultura dal basso, e quella che si allontana completamente da quella del grande evento piuttosto che della grande opera, e quindi anche delle grandi inaugurazioni, se vogliamo continuare con la parola grande, ecco. Di conseguenza cominciamo di 6 novembre alle ore 12 con appunto una conferenza stampa, e cui invitiamo a partecipare, nella quale presenteremo i 3 grandi appuntamenti di questo mese, di cui vi anticipo solo qualcosina, che sennò, come dire, vi svelo tutto quanto adesso non ha senso, vediamo un po' la curiosità. Venerdì 12, lo ripeto, venerdì 6 alle ore 12, ripeto, la conferenza stampa, ma tutta la giornata sarà piena di attività volte alla costruzione di quest'opera, la Crociera di Mauro Cuppone. Inaugureremo quest'opera permanente, la costruiremo dalle ore 18 tutti insieme. Questa croce ha un grande significato, che appunto sta ad indicare, sta a proteggere, diciamo, sta ad indicare quelli che sono gli spazi occupati, e li protegge, diciamo, per il diritto di avere una casa e un'utopia realizzata, come dire. Questo che cosa fa significare? Che in questo spazio qui, alla cavallerizza, questo spazio qua deve rimanere libero da quelle che sono tutte le mistificazioni e le varie speculazioni che questa città e questa amministrazione pubblica, insieme a tante altre istituzioni, quali appunto, come dicevi tu prima, l'università, degli studi, vogliono e portano tuttora avanti, insieme, come dire, a tutti gli altri pezzi, tra le fondazioni bancarie, l'Intesa San Paolo, che, come dire, regna sovrana sopra questa città. Di conseguenza noi qua vogliamo mettere una croce, dire qua questa cosa qui non si fa. L'Assemblea Cavallerizza vuole portare avanti un altro tipo di cultura. Di conseguenza questo weekend che vede artissima fuori dalle porte della Cavallerizza e tutta la settimana dedicata appunto all'arte contemporanea, noi vogliamo uno spazio all'interno di questa settimana, uno spazio per dire altro, per manifestarci in un'altra forma, con un'arte più vicina a quelle che sono le necessità dell'essere umano, quindi alla socialità e alle relazioni umane, che sono poi quello che portano avanti, voglio dire, le persone e le vite delle persone. Di conseguenza abbiamo organizzato tre giorni in Cavallerizza dedicati a questo, dove ci saranno proiezioni video, spettacoli e appunto ricordo il 6, la costruzione dell'opera Notiar. La prossima settimana invece ci sarà un grande appuntamento importante, si chiamerà Procreazioni, il forum delle autoproduzioni del basso, comincerà giovedì 13 pomeriggio. Troverete tutte le informazioni da domani sul nostro sito internet www.cavallerizzareale.org e anche su Facebook, che vi ricordo che la pagina è Assemblea Cavallerizza 1445. Quindi giovedì 13 nel pomeriggio comincerà il forum delle autoproduzioni e produzione del basso, che richiamerà qui a Torino tutta la rete di teatro occupati, quindi Macanota, Trovalle, Teatro Rossi, l'ex asilo Filangieri di Napoli, il Sale Dox e via dicendo, di Venezia, e anche il Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo. Insieme a loro tante altre realtà che invece sono indipendenti e da anni lavorano verso quella che è la produzione e la distribuzione dal basso delle opere artistiche. Tutto questo perché ci sembra importante tornare a ragionare su questi temi, ma perché nasce da un'esigenza che è quella che queste persone, i lavoratori dello spettacolo di arti immateriali, ma non soltanto loro, anche tutto il resto delle persone che vivono in questo paese, si trovano costantemente di fronte a una cultura e un modo di fare cultura e di accedere alla cultura e di distribuire e di produrre cultura che è completamente non solo incostante, spesso assente e, per non dire peggio, inaccessibile o solo accessibile per qualcuno. Di conseguenza ci sembra importante tornare a parlare di questi temi, farlo dal basso, con degli incontri, delle assemblee aperte a tutti, dove trovare delle buone soluzioni e portare avanti un'altra voce, portare avanti una voce che si contrappone al sistema. Questo è un po' l'indirizzo di questi appuntamenti. In più verrà richiamata l'assemblea pubblica cittadina che verrà fatta tra fine novembre e inizio dicembre, dove appunto sarà importantissimo partecipare per portare avanti quella che è la voce di tutta la città rispetto a questa cosa indecente della vendita della Cavallerizza, di questo bene patrimonio dell'UNESCO, ed è bene portarlo avanti dicendolo proprio ai diretti interessati, al sindaco Fassino, all'assessore Passoni, a tutta l'amministrazione cittadina, e quindi anche far sentire la voce verso appunto l'università e l'Aula Magna, che sono proprio qua attaccati a noi, anche andare a dimostrare che questa Aula Magna che cosa servire, quando appunto i discorsi che portano avanti gli studenti sono molto vicini alle persone, mentre un'Aula Magna probabilmente qua aperta solo per grandi passaggi, ma di pochi momenti, non capisco molto bene sinceramente qual tipo di relazione può avere in uno spazio centrale come la città di Torino, come il comune. Invece quando proprio di fronte c'è una Cavallerizza che sta aspettando da anni di essere sistemata e riportata a quello che era la sua origine, quindi a dargli veramente un senso di polo culturale. Questo è un po' il discorso. Spero di aver detto abbastanza tante cose. Ma direi che hai detto molto, infatti. Fatto sanguinare le orecchie. Non credo proprio, perché sanguinare le orecchie sono ben altre cose. Sentire Borghezio che parla. Quindi. No, faccio solo, rimetto un attimo in fila perché appunto hai annunciato, esatto, una conferenza stampa venerdì con annesso evento di costruzione, diciamo giornata performativa di costruzione di questa, di quest'opera, La Croce, esatto, in Ottier, nata dentro al MAM, il Museo, esatto, dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, esatto, che avrà, diciamo appunto, oltre ad essere un gesto materiale anche non indifferente, nel senso in cui è anche un po', credo, il primo intervento che facciate un po' più, diciamo, con occhio un po' più permanente sulla cavallerizza come assemblea, o sbaglio? Esatto, sì, no, no, c'è proprio l'intenzione, cioè sarà un'opera permanente, nel senso che occuperà proprio lo spazio. E se non sbaglio verrà costruita con proprio materiali di recupero della cavallerizza. Completamente, stessa. Tutti i materiali sono, cioè i ragazzi li stiamo tutti quanti giornalmente portando dai piani alti, dove ricordiamoci, quattro piani abitativo completamente in disuso, pieni di macerie, tutte provocate dalla mala gestione di questa amministrazione cittadina, e noi pezzettino per pezzettino, giorno per giorno, stiamo portando giù pezzi per pezzo queste macerie per costruire quest'opera tutti insieme, tutti insieme. Bene, poi appunto quando facevi riferimento all'assemblea pubblica, credo appunto, ricordiamo a tutti e tutte gli ascoltatori, gli ascoltatrici di Radio Blackout, che ogni domenica alle 18 avviene, diciamo, continuano le assemblee pubbliche in cavallerizza, pubblica, diciamo, un po' implicito, però certo, sottolinea, credo, l'apertura, e che in particolare a inizio dicembre, diciamo, ci si era lasciati a metà luglio con un'assemblea incredibilmente partecipata da centinaia, esatto, e centinaia di abitanti di Torino, che appunto metteva un po' in questione il consiglio comunale rispetto al fatto che dovesse esporsi sulla cavallerizza, che non potesse continuare a dire avete ragione, sì che carini e bravi, però noi la vendiamo uguale. Quindi, esatto, diciamo, questa interazione è andata avanti e adesso dovrebbe essere prevista per dicembre, credo vi abbia dato la sua parola, se non sbaglio. Sì, il sindaco Sassina e l'assessore Pastoni ci avevano dato la loro parola, che sarebbero stati presenti. No, non parlare al passato, dai. Com'è? Dico, capisco che ci sia poca fiducia nei confronti dei personaggi, però no, parlare no, al passato, dai. Ci hanno dato le loro parole, ci hanno detto che verranno, di conseguenza io mi aspetto che qua verranno, ecco, se non ci saranno, allora ovviamente questo sarà un chiaro segnale in cui la nostra amministrazione cittadina non vuole assolutamente prendere in voce, in capitolo, tutta una serie di cittadinanza che comunque vive questa città e vuole avere voce in capitolo sulla vendita o meno di questo luogo. E ricordiamo che le firme raccolte sono circa attorno alle 10.000 firme, per cui non è una fetta irrisoria, ecco, quella di cui non si può prendere in considerazione. Quindi è importantissimo partecipare a questo incontro, perché sarà veramente il momento in cui avremo la possibilità di nuovo di dire, per la prima volta probabilmente, di dire in faccia a tutti quanti, a Pastino e Pastoni, che noi questa cavallerizza non la vogliamo venduta, per cui questa cavallerizza non si vende. Di conseguenza, noi l'abbiamo già fatto di riprendercela, adesso bisogna, come dire, che anche loro se ne riprendano cura, perché altrimenti non, allora vuol dire che questa amministrazione cittadina non vuole ascoltare i suoi cittadini, allora c'è qualcosa che non va. Assolutamente d'accordo, diciamo, è importante la domanda che la cavallerizza ha sempre posto da che nemmeno era occupata un po', ovvero il chi decide sulla città, per chi, esatto, avvengono le trasformazioni urbane e sociali, di conseguenza sicuramente poi appunto è assolutamente condivisibile la scelta di entrare un po' in questo autunno dei festival, che sappiamo che il territorio torinese è abbastanza scandito dal suo palinsesto più che da una vita appunto non una vita un po' più imprevedibile, perché, esatto, arrivano cadenzati come sempre appunto queste, tutta la stagione dei festival, e invece entrare in questa tra artissima, paratissima, varie ed eventuali, con una performance, un'opera di nata dentro un'occupazione, nata, esatto, un gesto artistico forte, importante, nato appunto con dal basso, con in una realtà autogestita, che è un voglia meraviglioso come il MAM, poi, cioè, assolutamente di grande rilievo, credo sia una scelta molto felice da parte crediamo che sia una scelta felice, appunto, sottolineare che c'è una differenza sostanziale tra quello che viene messo in campo con un'artissima, che poi per essere un jazz festival, che per essere finanziata poi di fatto richiede un indebitamento che sappiamo che tipo di, che crea poi di fatto povertà, e e invece quella che può essere il ridare vita a dei cocci che erano, esatto, inutilizzati. Questa è la grande, questo è il grande segnale, secondo me, lei è proprio centrato il punto, nel senso che mentre fuori da queste mura il comune e tutte le istituzioni continuano, e tutti i festival che sono istituzioni a tutto regime, nel senso che producono eventi costosissimi che hanno un grande impatto economico sulla città, ma sono eventi che durano niente e che non lasciano nulla a questa città e alle sue persone, mentre invece questo atto qua che noi andiamo a mettere in campo è proprio un atto che invece è prendere quello che la città ha lasciato, quello che già abbiamo, e ricostruire da lì. Quindi è proprio un atto dal basso e per le persone, quindi questo, in questo senso qua, secondo noi questa è la forza e il messaggio che vogliamo mandare fuori. Bene Roberta, grazie mille, ci vediamo venerdì a questo punto. Venerdì alle 12, mi raccomando, tutti presenti. Andiamo, vabbè, dicevi tutta la giornata poi. Tutta la giornata, dalle 12 e poi cominciamo immediatamente con la costruzione di questa croce. Sarà un atto performativo perché ci metteremo lì tutti insieme, pezzettino per pezzettino la comporremo. Bene Roberta, grazie mille, giriamo il tuo invito a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta l'indirizzo web che hai indicato, www.cavallerizzareale.org, e il profilo Facebook Assemblea Cavallerizza 1445. Grazie mille Roberta, a presto. Grazie mille a voi, buona giornata, ciao. Altrettanto. Ciao, ciao. Dodici e 25, abbiamo fatto una chiacchiera densa, ma sicuramente valeva la pena un po', appunto, precedere questo tappeto di festival che si stenderà lungo l'anno, come dicevamo prima, dando un po' di nuovo voce a una realtà che su questo nodo, diciamo, ha preso voce in capitolo tempo fa e che sicuramente fa un lavoro importante nel anche abbattere un po' i confini di questo riconoscimento della cultura come oggetto un po' sacro e anche non si capisce che su cui c'è per forza deve necessariamente darsi quest'aura di rispetto e di intoccabilità, senza poi che si sappia bene che cosa sia sta cultura, cosa è cultura secondo chi, e di fatto ci sembra molto importante il discorso della cavallerizza, appunto la cultura non ha la C maiuscola, quella C maiuscola serve solo a creare un meccanismo economico e diciamo un'ideologia di mala distribuzione di quelle che sono poi le risorse comuni, quindi ancora una volta ci ha fatto piacere dare voce a questo discorso, vedendo anche che appunto il mese a venire sarà ricco di eventi. E adesso vi lasciamo agli ultimi pezzi, poi in conclusione andiamo a ricordare qualche appuntamento e poi vi salutiamo per darvi appuntamento alla prossima settimana. notte, per strada tutto tace. Nella notte poi parte il fuoco che mi reato la pace. Calma nei quartieri, all'alba nei cantieri, aprono i commercianti che pagano prezzi interi. Sono sempre di più di quelli che dicono addio. Dovrei pensarci anch'io, come spettacoli io. Fai le valigie in fretta e parti subito. O busso una porta aperta per farti subito. C'è chi davvero non ce la fa più, chi tira avanti perché trovo un modo, leccando le scarpe di un politicante che vuole la foto del voto. Sfidano i miserabili, passano da dove abili, gli anni che pisciano i limiti loro per i inviolabili. Per noi stanno battere ciglio, no, bastando che parli di Dio. No, aspetti di fare l'eroe, no, davanti al sistema tuo figlio. Wow. Se offri il caffè a buon raffè, mi puoi imparare le mossina. Sono pagato, il nero nella nuova azienda, a borsità. So che la rabbia esplode, ma non sono tutti quasi. Se ci si ribelle, non segue un comando, diventa il nemico e lo mettono al bar. Eppure si sa, molti lo sanno che dentro le case l'aria è cambiata. E che solo per spero di tempo succederà la propria innescata. Desolate, persone abbandonate, speranze come buste di immondizie e angoli ammucchiate. Qua c'è fiducia in ogni vostra frase, qua manca un futuro come acqua nelle case. Reggiora la prima, il sole illuminato scempio, si fosse di incapaci ci ha portati al fallimento. Una città ingannata da ogni persona eletta, una terra umiliata da ogni singola mazzetta. Ogni giorno che passa cresce forte il malumore, i morsi della fame fanno sempre più rumore. Gente disperata che ti raccappare, che adesso c'è il veleno dentro come il nostro mare. Se non è stato pago allora sarà fuori legge, il branco di lupi per strada che chiama di greggio. E non ci sono più promesse perché non c'è più domani. Anni presa di sta terra come partigiani. E ogni notte penso questa notte sarà nostra. E il buio intorno sarà il fuoco a metterci mostra. Sarà per questa terra e sarà per amore. Reggio Calabria, la rabbia esplode. Io sputo rime solo per dire ciò che mi fa schifo, tanto questa mandata quanto quella precedente. Un altro giorno, un altro giro di notizie, cattive come sporco, cattive notizie. Capisco la difficoltà che provi nel capirle, tutte ste verità, faccio un po' fatica a dirle. Ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle, tutte ste verità, faccio un po' fatica a dirle. Ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Circolo vizioso, broker speaker, cado senza fede, non ci credo alle stronzate che dite. Un 5 ogni member che mi segue, a colpi di macete, nella folla che ammazza e non se lo chiede. Sotto il

E andiamo avanti, sulla giornata di giovedì non troviamo appuntamenti, per cui saltiamo direttamente verso il weekend ricchissimo di appuntamenti. Allora, venerdì sera, appuntamento al centro sociale a Scatasuna, Corso Regina 47 con Eugenio Finardi live. Ricordiamo anche per chi fosse interessato la puntualità, perché il concerto inizierà intorno alle 22 reali a quanto pare, quindi insomma per chi fosse interessato raccomandiamo di arrivare sul presto, le porte saranno aperte già insomma dalle 8:30 a 9, quindi insomma non c'è bisogno di scapicollarsi. Mentre al centro sociale Gabrio, un'altra seratona, concerto live con gli AP2P, All Power to the People, il progetto di Bonno e M1 dei Dead Prez, quindi per gli appassionati del genere sicuramente un appuntamento da non perdere. Inizio concerto 23:30 al CSA Gabrio, via Miglio 42. E andiamo avanti, sempre venerdì 7, Radio Blackout presenta Pulp, la polpa dei libri. Con Francisco presentiamo il romanzo Figli delle Stelle, dalle 21 nella Blackout House in via Cecchi 21A. E durante il giorno ricordiamo sempre venerdì 7, ancora una volta, l'installazione, la costruzione collettiva e partecipata dell'opera Notier di Mauro Cuppone, nata dentro al MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis. E su questo direi che possiamo salutarvi, lasciarvi un ultimo pezzo mentre Maurizio e Gianluca dall'altra parte del vetro si preparano con il GR. Noi come sempre vi diamo appuntamento a martedì prossimo dalle 10:45 alle 12:45 sulle libere frequenze di Blackout. Nel frattempo sul blog del collettivo universitario autonomo Torino trovate tutti i podcast delle puntate, quindi se avete piacere di riascoltarci o vi siete persi qualcosa trovate tutto lì. Noi vi salutiamo, nel frattempo è arrivato un SMS, dobbiamo leggerlo. Allora ci dicono, per fortuna proprio in corner l'abbiamo presa, ci dicono ciao ragazzi, siamo ragazze se non aveste capito, comunque scherzo, potete aggiungere in agenda il concerto organizzato ai giovani Notav? Bene, assolutamente lo faremo per tutti i redattori dopo di noi e rilanciamo questo appuntamento venerdì 7 alle ore 9 al centro sociale di Villardora. Si esibiranno giovani gruppi della valle, Waffle, The Perception, Steal It From My Mind. Benefit, spese legali per i Notav. Bene, sosteniamo assolutamente tutte le iniziative del Comitato Giovani Notav. Chiunque non abbia voglia di una serata metropolitana sa dove andare, a Villardora. E su questo allora davvero vi salutiamo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout e noi ci risentiamo martedì prossimo. Un saluto e un augurio di buona giornata da Francesca. E un saluto a tutti e tutte anche da Eddie. Non fatevi abbattere da questa settimana di pioggia. Martedì, se non siete riusciti a farvi pervare la tristezza, vi tiriamo su noi. A martedì prossimo!